www.radio3pod.rai.it. Eh sì, buongiorno, ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio, cioè pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Eh sì. Succede, per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli incombe come ogni notte l'incubo della macellazione, Kappa e Drago si dedicano all'attività fisica. Maledetto me stesso. Cosa, Drago? Cos'hai adesso? Indovina. Sei sempre lì a lamentarti. Ma per forza, dai, quei pesi da 2 chili in mano a fare sto movimento da robot, dai. Sembra di essere scemo. Concentrati un po', su. Gli esercizi si fanno in silenzio. Perché ho accettato di fare ginnastica? Me lo spieghi? Io lo dicevo sempre da piccolo. Non voglio far ginnastica perché è roba da fascisti. Ma piantala di dire sciocchezze. Quali su? Sciocchezze? Dai, lo diceva sempre mio padre. Lui il sabato mattina doveva andare a fare ginnastica vestito da balilla. Altro che stretching con le fighette in tuta aderente. Che tu vedi delle fighette in tuta aderente? Io vedo solo della paglia e delle galline spaventate. Vabbè, dai, dicevo tanto per dire. Qui di fighette in tuta aderente credo proprio che non ne vedremo mai. Dai, basta solo chiacchiere, la fatica, eh. Qui si lavora, forza! Ricominciamo. Davanti, avanti, di lato. Davanti, di lato. Avanti, di lato. Davanti e di dietro. La fabbrica di polli. Stanotte ho fatto un sogno stranissimo. Ma di nuovo, capo? Io non li ricordo mai i sogni. Io ero in Vespa per Milano, era inverno, c'era la strada bagnata e a un certo punto una macchina mi tagliava la strada e io dovevo inchiodare di colpo. Sì. Rischiavo di cadere, però poi mi trovavo sulla funivia per andare a sciare insieme a Lapo e il cane. Ma com'era? Sì. Ma no, dai, sì, ma che incubo, incubo di viaggio. Così, eh. E poi in effetti Lapo attaccava tutto su una predica sul nuovo modello di guanto a forma di dito medio, che secondo lui serve a dire fuck you al mondo malato che ci circonda. Il sogno di un realismo sconcertante. Per poi però Lapo diventava Gianni Agnelli e diceva esattamente le cose di Lapo. Strano, E continuava a magnificare i guanti a forma di bambino, perché così il mondo, eccetera, eccetera, fino a che io non mi trovavo a Parigi in Rue de Toulouse. Di nuovo? Eh sì, è strano, perché in quella strada io non ci sono mai stato. E poi cosa succedeva? E poi diventavo francese. Ma dai, ma finiscono sempre così, tu so. Ah, bon oui. Finiscono che tu diventi un francese borioso e strafottente. Ah, je m'en fous, moi. Signor. Andare in Francia per Natale, per 3 giorni o poco più, nuove facce sul giornale e dell'Italia nulla più. Saltare con slancio il recinto è ancora possibile, e uscire dalla gabbia con rabbia è ancora possibile. La fabbrica di polli. Su, coraggio, Drago, ma sei tutto rigido. Kappa, io non faccio esercizio fisico dai tempi della terza. Liceo? No, media. Correva l'anno 1980 e Drago, che non correva, fece quello che sarebbe stato il suo ultimo piegamento. Da lì al 2007. Aia! capa, ma tu te lo immagini quel che sta succedendo nel mio organismo in questo preciso istante? Un gran casino, direi. Muscoli che dormivano da 17 anni, il sonno dei giusti, richiamati al fronte a combattere in prima linea. Sì, pettorali inerti che sonnecchiavano beati, sicuri di averla scampata per sempre. Acido lattico perso tra le fibre muscolari sconosciute. Battito cardiaco parossisticamente superiore alla media. Vista annebbiata, respiro faticoso. Occhio opaco e nero. Fauci secche, bava alla bocca. Presto! Anestesista Drago! Dica, dottor K! Lo stiamo perdendo! Presto! Carica 300! Libero! Ma non libera così. Insider Trading. Finalmente! If you're tired of waiting. Insider Trading. Tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare. Get your Insider Trading. Insider Trading. Allora io lavoro di canelli e tutto il bello con moli e fili e lavoro e alla sera quando prendo finisco di lavoro passo di chiosco, bevo 2-3 pivo, poi vado di casa, mangio, poi in macchina non mettiamo cinture, andiamo tanto forte e tante volte non arrivo a casa, lascio macchina tutta rotta contro un muro e il giorno dopo vado di nuovo a lavorare. E insomma faccio sempre questo io, perché mi piace vivere così con carne di maiale e sempre a mio fianco. La fabbrica di polli. Beh, per fortuna noi polli non abbiamo bisogno di far ginnastica. Beati voi, Beh, perché a noi i muscoli non servono mica. No. Noi dobbiamo solo camminare tranquilli senza mai faticare per tutta la nostra vita, no? Breve vita. Anche se quando ero un uomo però la facevo la ginnastica, io andavo anche da un maestro yoga, uno con i capelli lunghi, i baffi, aveva l'aria un po' equivoca, Ma era bravo. Meno male che aveva l'aria equivoca. Vabbè, no, perché questo qui mi faceva fare degli esercizi molto strani, no? Che alla fine prevedevano sempre che lui mi teneva fermo con le mani, no? Solo che le mani me le metteva sempre sul culo. No, mi giravano un po' i maroni, Ci credo. Perché lui mi diceva, fai così, fai cosa, ecco, bravo, aspetta che li tengo fermo. E mi metteva le mani sul culo. Hai capito. Poi un giorno è anche venuta la mania di fare la famosa posizione yoga di D'Annunzio, no? Bullo, per favore, la posizione di D'Annunzio sappiamo tutti che non c'entra con lo yoga e che è meglio smettere subito di parlare. Subito. Infatti, è solo che questo qui una mattina viene e fa, oggi ti faccio provare una posizione inedita. Io sono qui, pago, vediamo un po' cosa fa. A me sembrava, era un po' strana, perché a me sembrava che con lo yoga, no? Non è che c'entrasse molto. No, ma infatti non c'entra niente. Cosa può c'entrare D'Annunzio con lo yoga? Ho capito, ma lui era il maestro e lui insisteva, D'Annunzio. Vabbè. Ho capito, è come finita? E alla fine. E poi si è scoperto che non era un vero maestro yoga. No, e chi era? Era Freddie Mercury. Come Freddie Mercury? Sì, Ma cosa? No, era Freddie Mercury, solo che era travestito, uno dei suoi migliori travestimenti. Ecco. E solo che poi l'hanno scoperto e gli hanno tolto il patentino, no? Che era falso. Il patentino di yoga, di maestro yoga. Però poi lui ha fatto ricorso al TAR del Lazio. Ma chi? Freddie Mercury? Ed è stato lì per diventare di nuovo il mio maestro di yoga. Una bella grana, te lo imponevano, questo è di nuovo il tuo maestro di yoga. Però fortunatamente poi gli hanno dato torto, E allora è tornato di qui. Un bene per te e un bene anche per la musica, direi. Beh, insomma, per me di sicuro. We are the champions, my friends. Down, down, down. Che cosa succederà adesso? Quali altre rivelazioni sul suo passato da uomo ci farà il pollo in sbattimento? Sapremo qualche cosa di più sulle sue origini? Non disperate, basta aspettare fino a domani e sintonizzarsi a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo iperscapestrato allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai.